greater than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli è sempre mezzanotte, Kappa e Drago rivedono uno strano tipo di volatile. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, Drago, è mezzanotte. È ancora mezzanotte. Lo so, Kappa, lo so. E questa faccenda comincia a essere imbarazzante. Ma certo. Ma si può sapere che cosa ci facciamo in un allevamento aviario pieno di virus aviari alla mezzanotte di una notte senza fine? Che ne so, Drago, che ne so. Ma che strano odore. Se è strano odore. No, uno strano odore. È la solita inconfondibile brezza al gusto di fabbrica di polli, dai. No, Drago, no. Ormai il mio olfatto si è abituato alla puzza di fabbrica di polli, quella propriamente detta. Questa è diversa. Questo è un odore diverso, La sua lingua, então vem, quero abraçar você. E questa musica adesso? Questo è David Bowie che canta in genovese. Che tu sappia, ha mai inciso dischi con De André. Ma quale Bowie, quale De André, Drago? Questo è il Tucano. Ah, il Tucano prigioniero. Vedi puntata numero 12. Povero Tucano, ma che destino crudele. Ma pensa, Drago, è stato deportato qui per un errore giudiziario. E adesso è qui, non riesce a farsi scarcerare. Una storia terribile. Kappa, che cosa ti devo dire? È un tipico caso di... Infausto destino degli innocenti. Ma no, ma Kappa, ma ti commuovi, ma veramente? Però è assurdo che un tucano sia prigioniero in un istituto che ospita solo polli. Ma io ho questo... capito, lo so, Kappa, ma ce l'ha spiegato l'altra volta il polli in sbattimento, no? Quando arrivano i camion dall'estero, a volte saltano fuori delle sorprese. In questo caso hanno preso per errore uno splendido tucano e adesso sono cavoli suoi. Guarda quanto è bello, però, eh? Sì, è bello. Ah, è bello, triste, nobile. Sembra James Dean. Ah, dici che assomiglia a James Dean. Ma con quel becco, però, assomiglia di più a Sean Penn. Sì, forse. Ma scusa, Drago, ma non possiamo fare qualcosa per rimetterlo in libertà? Che cosa ci distingue dagli animali, Drago? Che cosa? La memetica. Ma cosa stai dicendo? Rispondevo come mi hai insegnato tu a rispondere qualche mezzanotte fa. Vedi puntata numero 3. Allora, se il destino ci ha mandati in mezzo alle galline, noi uomini dotati di un certo intelletto, vuol dire che siamo noi che dobbiamo far valere la nostra superiorità. E questa è una responsabilità. Ah, vuoi dire che bisogna fare una rivolta, uccidere tutti i polli e prendere il comando della baracca? Superiorità? No. Vuol dire che salveremo il tucano. Salveremo il tucano. Salveremo il tucano. I want you, baby, you have the flu. I want you, don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guarda se mi tocchi che magari c'hai la diaria. I want you. Noi giovani polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you, baby, you have bird flu. I want you, but don't you have a bird flu? Lunedì notte, in discoteca. com'è strana la mezzanotte nel silenzio. Mi pare di capire che per gli altri, per quelli che vivono fuori di qui e che qui ogni tanto entrano, questa sia la normalità della notte. Io la sperimento solo ogni tanto. Il lunedì il locale è chiuso, ma noi lavoriamo comunque. Mi fermo nel locale chiuso, un ventre vuoto e nero che accoglie solo me. Preparo un gin tonic, metto su qualche disco, mangio. Una discoteca deserta sembra scavata dentro. Qualcuno è passato e ha buttato via tutto, lasciando solo il guscio. È insensata, è una bocca senza denti. Sarà per questo che la trovo bellissima. Se avessi molti soldi, molti più di così intendo, farei progettare e costruire discoteche destinate a non essere mai aperte, vissute e consumate. Discoteche da contemplazione. Mi è sempre sembrato riduttivo difendere solo la purezza della natura incontaminata. Vorrei consacrare qualcosa alla purezza dell'artificiale, solo per sancirne l'inviolabilità. E poi vorrei vagarci dentro, perdermi, farmi seppellire nel privé come un faraone. Ho deciso. Anche questo lunedì resto ancora un po'. Mi preparo un piatto di pasta, poi metto la musica a tutto volume e ballo al centro della pista. Anche stanotte voglio godermi fino in fondo la bellezza immacolata dell'assenza dei miei simili. La fabbrica di polli. Ehi, voi due! Questo chi è? Mi sa che è un pollo parlante. Un altro. Vi interessa il tucano? Sì. Ma tu chi sei, scusa? Lasciate perdere il tucano. Il tucano non è importante. Vabbè, ho capito, ma tu chi sei? Siete due ficcanaso, non è forse vero? Sì, però si dice ficcanasi e tu sei straniero perché... No, veramente, scusa, capo, ha ragione lui. Si dice due ficcanaso, scusa. Cioè. Un ficcanaso, due ficcanaso e poi da tre... diventa tre ficcanasi. Certo. Allora, siete o non siete due ficcanaso? No, dipende dai punti di vista, scusa. Forse il ficcanaso sei tu. Infatti. Io non sono un ficcanaso. Io sono importante. Io sono uno che comanda. Ah, sei un pollo comandante. Sei importante. Allora magari potresti aiutarci nella nostra missione. Cioè, nella missione del mio amico che si chiama K, te lo Salve. Presento. Invece sono Drago, piacere. E tu come ti chiami? Non importa che sappiate il mio nome. Capisco, la segretezza in tanti casi è importante, tu sei importante, ma scusa, come facciamo a parlare con te se nemmeno sappiamo come ti chiami? Un po' di cortesia, magari. Non capisco quel che dice, capo. Vabbè, straniero. Stiamo parlando da 5 minuti e voi non sapete il mio nome. Si può fare benissimo. Che logica, ferrea. Sì, sì. Ripeto che il mio nome non è importante. Io sono importante. Il mio nome è meno importante di me. Chiaro? Sì, è chiaro, però noi stiamo cercando qualcuno che possa risolvere la questione del tucano. Il tucano non è importante. Io sono importante. Sì, sì. Ho capito, ma noi parlavamo del tucano. Vi interessa il tucano? Sì, scusa. Sì, ci interessa il tucano perché la sua storia è terribile. È una storia di malintesi, di soprusi. Ma insomma, come potete sopportare di avere come compagno di sventura una creatura che con tutta evidenza non è un pollo? Lui non è un pollo. Cos'è? Ridi. Siete ingenui. Ma non è importante. Io sono importante. Lasciamolo stare. Ma adesso... seguite. Sì, seguite. Seguitemi dove? Non è importante. Sì, vabbè, allora io... Se vi interessa il tucano, venite, seguite. Ma perché? Ma... sì, ma Drago, dai, seguilo. Tu ti fidi di uno che vediamo così... Sì, seguilo. Non è importante. Ma come infatti, non è? Io sono importante. Lui è importante, Drago. Seguite. Seguilo. Proprio perché sono importante. Sì, ma dove stiamo andando? Ma non sono mai andato... Drago, non chiederglielo perché non, non è importante. Che cosa succederà adesso? Chi è il pollo misterioso con l'accento inglese? E dove si stanno arrischiando a seguirlo, K e Drago? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo aviario allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar Lumen.